Il punto di Stefano Folli. Quasi alla vigilia del giorno in cui la sentenza che lo riguarda diverrà esecutiva sotto forma di servizi sociali o arresti domiciliari, Berlusconi chiede a Napolitano di poter continuare a calcare la scena politica come è accaduto negli ultimi 20 anni, rappresentando gli italiani che votano Forza Italia e garantendo che questo aiuterebbe il cammino delle riforme istituzionali in Parlamento. Se non è una richiesta di grazia, poco ci manca. Berlusconi, in qualità di capo dell'opposizione, vorrebbe che l'esecuzione della pena fosse una mera formalità, di fatto aggirandola più di quanto già non sia. L'argomento è il suo ruolo politico in nome dei milioni di italiani che lo seguono. La richiesta come tale non è ricevibile sul piano costituzionale e infatti Napolitano non l'ha raccolta, ma è anche l'indizio del grave stato in cui versa il partito berlusconiano, acefalo e lacerato. Senza Berlusconi la nave di Forza Italia rischia di finire sugli scogli e il patto con Renzi, ecco la minaccia implicita, potrebbe saltare. Eppure, senza un minimo di stabilità, gli interessi di Berlusconi, politici e soprattutto economici, sarebbero ancora più in pericolo.